Al-Munafikun, gli ipocriti. Bismillahirrahmanirrahim. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Iza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullahi wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Quando vengono a te, gli ipocriti dicono: attestiamo che sei veramente il messaggero di Allah. Ma Allah attesta che tu sei il suo messaggero. E attesta Allah che gli ipocriti sono bugiardi. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. Si fanno scudo dei loro giuramenti e hanno allontanato altri dalla via di Allah. Quant'è perverso quello che fanno. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. E questo perché? Prima credettero, poi divennero increduli. Sul loro cuore fu quindi posto un suggello affinché non capissero. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤمنون. Quando li vedi, sei ammirato dalla loro prestanza. Se parlano, ascolti le loro parole. Sono come tronchi appoggiati. Credono che ogni grido sia contro di loro. Sono essi il nemico. Sta in guardia. Li annienti Allah. Quanto si sono traviati. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. E quando si dice loro: venite, il messaggero di Allah implorerà il perdono per voi. Voltano la testa e li vedi allontanarsi pieni di superbia. سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي Per loro è la stessa cosa che tu implori perdono per loro o che non lo implori. Allah non li perdonerà mai. In verità Allah non guida gli empi. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى انفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. Essi sono coloro che dicono: non date nulla a coloro che seguono il messaggero di Allah affinché si disperdano. Appartengono ad Allah i tesori dei cieli e della terra, ma gli ipocriti non lo capiscono. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. Dicono: se ritorniamo a Medina, il più potente scaccerà il più debole. La potenza appartiene ad Allah, al suo messaggero e ai credenti, ma gli ipocriti non lo sanno. Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dhikrillah وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. O credenti, non vi distraggano dal ricordo di Allah i vostri beni e i vostri figli. Quelli che faranno ciò saranno i perdenti. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. Siate generosi di quello che noi vi abbiamo concesso, prima che giunga uno di voi la morte ed egli dica: Signore, se tu mi dessi una breve dilazione, farei l'elemosina e sarei fra i devoti. Wallahu khabirun bima ta'malun. Ma Allah non concede dilazioni a nessuno che sia giunto al termine. Allah è ben informato a proposito di quello che fate.